Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Igor il Russo, il criminale che ha seminato paura nelle campagne del Ferrarese, sarebbe stato arrestato in Spagna. È stato arrestato in Spagna dopo una sparatoria con la Guardia Civile. 3 le vittime nell'azione. Caso Etruria, Boschi nel mirino delle opposizioni. Lei replica: nessuna pressione. Vegas mi chiese un appuntamento alle 8 del mattino a casa sua. Ryanair cede e riconosce il sindacato piloti. ANPAC sospende lo sciopero previsto per oggi. La FIT CISL lo conferma. Corruzione, arrestati un ex dirigente del municipio di Ostia, filmato mentre prende una mazzetta e 2 imprenditori. Trovato il corpo dell'ex calciatore scomparso da settimane, una donna e il figlio lo avrebbero ucciso per non pagare un debito. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video, che è la pagina Facebook di Effetto Giorno e anche quella di Radio 24, e anche là, se volete, potete commentare. Dall'altra parte del vetro oggi Laura Faggini in assistenza in redazione, Filippo Aureggi in regia. Iniziamo dunque, e iniziamo da una vicenda che, come sapete, abbiamo trattato lungamente e spesso, addirittura con degli appuntamenti fissi nei giorni nei quali si ricercava Igor, appunto nelle campagne del Ferrarese. Igor il Russo, alias Norbert Fehr, alias Igor Vaclavic, dunque è stato arrestato, ed è stato arrestato in Spagna. Il punto con Raffaella Calandra. Raffaella. Sì Simone, la sua fuga è finita dopo 9 mesi di caccia all'uomo e dopo altri 3 morti. Igor il Russo, ricercato in Italia per aver ucciso il barista di Budrio, Davide Fabbri, una guardia ecologica e forse anche un metronotte, è stato catturato in Spagna, a Saragozza, come ricordavi, dopo un conflitto a fuoco in cui ha ammazzato 2 poliziotti della Guardia Civile e un civile. Era scappato dunque dall'Italia, dove a lungo è stato il ricercato numero 1 per centinaia di forze dell'ordine in una zona rossa tra le province di Bologna e Ferrara. Spietato, senza scrupoli, di una pericolosità assoluta. Il suo profilo criminale, tratteggiato così dagli inquirenti, Igor il Russo lo ha confermato fino alla fine, quando a sangue freddo ha di nuovo fatto fuoco. Dopo la cattura, la polizia italiana ha confermato la sua identità con le impronte digitali. Dalla scorsa estate degli indizi avevano spinto la Procura di Bologna ad avviare una rogatoria con la Spagna per acquisire elementi e conferme, come aveva fatto anche con Austria e Serbia almeno. Una pista che dunque si è rivelata giusta, ma che non fa sparire, ora che l'ex ricercato numero 1 è stato catturato, tutto il fronte delle polemiche, degli scontri tra apparati e pure delle indagini bis aperte per favoreggiamento per la mancata cattura fino ad oggi. Niente è stato sottovalutato, assicura il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, ma tutto questo verrà dopo, con tutte le altre indagini su chi lo ha aiutato nell'espatrio. Poi verrà anche un bilancio complessivo di questi 9 mesi, come solo un coordinamento con Eurojust, ha specificato il procuratore Amato. Potrà stabilire dove verrà per prima processato Igor, perché se in Italia è accusato appunto di 3 delitti, ora anche in Spagna, dove è stato catturato, deve rispondere di altri 3 morti. Sentiamo il procuratore. Ci sarà la nostra richiesta di estradizione, che dovrà fare i conti con il fatto che il paese richiesto della estradizione ha un procedimento penale per fatti gravissimi commessi in quel territorio. Noi certamente processeremo Igor. Dunque ci sarà in Italia il processo a Igor, ma ci sarà anche poi tutto il resto dell'indagine, che porterà a capire come sia stato possibile che per 9 mesi un uomo solo non sia stato catturato, e quindi chi anche lo ha aiutato nella sua fuga. Simone. E grazie dunque a Raffaella Calandra. Ci torneremo su questa vicenda, ci torneremo tra poco, più avanti nel corso della trasmissione, come si dice, una vicenda che abbiamo seguito lungamente. Intanto andiamo alle altre notizie, iniziando dal braccio di ferro su Ryanair, che si conclude con quella che sembra essere una vittoria per i lavoratori. Dopo un braccio di ferro durato anni, Ryanair cede alle richieste dei piloti. Preoccupata per gli scioperi annunciati nei prossimi giorni in tutta Europa, oggi per la prima volta la low cost ha fatto sapere di essere disposta a trattare con i sindacati. In una lettera inviata ai propri dipendenti di cabina, il numero 1 di Ryanair, O'Leary, ha comunicato di essere pronto a discutere di contratti e diritti con le rappresentanze sindacali. Dopo la svolta, in Italia l'ANPAC ha deciso di sospendere lo sciopero dei piloti Ryanair in programma oggi dalle 13 alle 17. La protesta è stata invece confermata dalla FIT CISL, che ha fatto sapere di non aver ricevuto comunicazioni da parte dell'azienda. Sempre oggi in Italia, nella stessa fascia oraria, è previsto anche lo sciopero dei controllori di volo dell'ENAV, proclamato sempre da FIT CISL e UGL. Alitalia ha programmato la cancellazione di alcuni voli e ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per la politica ancora il caso Etruria in primo piano. La nuova bufera su Maria Elena Boschi non muta la linea del PD. Il partito fa quadrato sulla sottosegretaria nella vicenda di Banca Etruria, anche perché, a dire del Nazareno, non ha fatto pressioni sull'allora presidente della Consob, Giuseppe Vegas. Nessun favore a mio padre, ribadisce Boschi in TV, mentre denuncia un SMS in cui Vegas l'invitava a casa alle 8 di mattina per parlare della questione. Tutto chiarito per Ettore Rosato, capogruppo Dem. Non siamo nella bufera, mi sembra che anche nella trasmissione di ieri sera abbia dimostrato con grande serietà e con grande fermezza la sua estraneità da qualsiasi coinvolgimento in vicende che non siano trasparenti. E mentre a San Macuto continuano anche oggi le audizioni in commissione d'inchiesta sulle banche, che sembra essersi trasformata in una speciale su Boschi, l'opposizione attacca. Per Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle la sottosegretaria è un conflitto di interesse vivente, deplorevole che in quegli anni fosse andata da Unicredit Consob per occuparsi della banca del padre. Intanto la trasmissione di Didi Gruber 8:30 con Boschi e Travaglio fa il boom di ascolti, 2 milioni di spettatori pari all'8,38 di share. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le cronache dalla manovra e soprattutto i dati arrivati questa mattina dalla Banca d'Italia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, partiamo allora proprio dai numeri sempre indicativi di Banca Italia sullo stato di salute del nostro paese, con uno sguardo particolare alla macchina amministrativa, focus su entrate fiscali, crescita ed occupazione. Il debito in particolare delle amministrazioni pubbliche ad ottobre è stato di 2.289,7 miliardi, in aumento di 5,8 rispetto al mese precedente. Nei primi 10 mesi dell'anno le entrate sono state invece pari a 339 miliardi, in aumento dell'1,3% rispetto al 2016. Quanto alla crescita, Banca Italia vede al rialzo le stime, più 1,6 quest'anno, più 1,4 il prossimo. Buone notizie anche per il mercato del lavoro, che vedrebbe un più 4% fino al 2020. Altro fronte è quello della manovra economica. Il testo è in commissione bilancio alla Camera, con in primo piano fisco, semplificazione ed enti locali, con i finanziamenti per province e città metropolitane. Più in generale, i comuni che rischiano il default avranno un arco di tempo più lungo per ripianare gli squilibri finanziari, anche nel caso in cui abbiano già ricevuto, come nel caso di Napoli, l'avvertimento della Corte dei Conti. Domani infine dovrebbe arrivare il pacchetto di emendamenti del relatore, che conterrà anche una nuova versione della web tax approvata dal Senato. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Migliette, torniamo alla cronaca con l'omicidio dell'ex calciatore. È stato scoperto il corpo dopo settimane di ricerche. Non volevano restituire ad Andrea La Rosa, ex calciatore di Serie C, un prestito in denaro, e per questo lo avrebbero prima ucciso e poi avrebbero tentato di liberarsi del corpo. È l'accusa nei confronti di Raffaele Rullo e di sua madre Antonietta Biancaniello di Quarto Giaro, fermati dai carabinieri di Milano ieri su disposizione della procura milanese. Sono stati interrogati tutta la notte e questa mattina sono stati sottoposti a fermo. Ad uccidere sarebbe stato Rullo, con la complicità della madre. I due avrebbero poi acquistato dell'acido per sciogliere il corpo. Il 35enne milanese Andrea La Rosa aveva un passato in Serie C come calciatore, poi in diverse altre categorie. Da qualche anno era approdato all'altro lato della panchina come dirigente sportivo. Era scomparso il 14 novembre scorso. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo al Consiglio europeo, che si chiude oggi. È un vertice che si chiude con risultati contrastanti, quello che sta volgendo al termine qui a Bruxelles. I 27 hanno inaugurato una storica cooperazione rafforzata nel delicatissimo settore della difesa, presentando 17 progetti di collaborazione, di cui 4 guidati dall'Italia. Nel contempo hanno dato il via libera ai negoziati con il Regno Unito, in vista di un'intesa di partenariato. molto più deludenti i risultati sul fronte della crisi migratoria e della riforma della zona euro. Le divisioni tra est e ovest e tra nord e sud sono state tutte confermate. Sul versante migratorio, i paesi dell'est continuano a rifiutare il ricollocamento obbligatorio dei profughi arrivati in Italia e in Grecia, a dispetto delle pressioni in tal senso di Italia e Germania. Sul fronte della riforma della zona euro, le divisioni nazionali rimangono le stesse. Sui due nodi, quello migratorio e quello relativo alla zona euro, i 28 vogliono trovare un'intesa entro giugno. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È stato presentato oggi il rapporto Istat su benessere equo e sostenibile. Negli ultimi due anni, 2015-2016, la ripresa è evidente e anche rispetto al 2010 siamo in crescita. Così gli indicatori del benessere calcolati dall'Istat mostrano un miglioramento per salute, ambiente e istruzione, un recupero completo dell'occupazione, un leggero calo per reddito, relazioni sociali e qualità dei servizi, ma restano squilibri evidenti soprattutto tra nord e sud, spiega Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica. Abbiamo occupazione, reddito e disuguaglianze, paesaggio e patrimonio culturale, condizioni economiche minime e qualità del lavoro, in cui abbiamo dei gap misurati da questi andamenti assolutamente profondissimi. Sul fronte delle famiglie, nel 2016 aumentano reddito disponibile e potere d'acquisto, ma cresce anche la disuguaglianza con una stabilizzazione della povertà assoluta. In particolare, cala la povertà per gli over 65 e sale per i giovani, soprattutto per i minori. Una forbice che deve essere un elemento centrale del dibattito, evidenzia l'Istat. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rapporto tra l'altro nel quale si parla anche dei nostri laureati. Nel 2016 circa 16.000 sotto i 40 anni hanno lasciato l'Italia, solo poco più di 5.000 sono rientrati. Quindi per tre giovani laureati che sono andati via, solo uno è rimpatriato. Questo, si legge nel rapporto, per la scarsa capacità dell'Italia di favorire prospettive di occupazione altamente qualificata. Un dato che viene confermato oggi anche dall'Ocse, nel giorno nel quale tra l'altro gli studenti sono tornati in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro. In Italia i titoli di studio e le qualifiche non corrispondono alle reali abilità degli studenti. Ci va giù dura l'Ocse con il nostro paese. I laureati in università che puntano su competenze professionali e tecniche di alto livello trovano più rapidamente lavoro e sono meglio retribuiti rispetto a tutti gli altri laureati, che spesso devono accontentarsi di un posto che richiede qualifiche molto inferiori. Ciò nonostante, a livello di superiori, i percorsi di formazione tecnica e professionale vanno rafforzati, di modo che le famiglie possano considerarli una buona alternativa ai licei. Altra nota dolente, ormai un classico, la necessità di rafforzare il dialogo fra scuola e impresa per ridurre il divario fra competenze degli studenti e competenze richieste dalle aziende. Va nella giusta direzione, ma non basta la riforma della buona scuola, osserva l'Ocse, anche con l'alternanza scuola-lavoro, quell'alternanza contro cui sono tornati in piazza gli studenti a Roma e Milano. Gli studenti chiedono maggiori regole, la carta con diritti e doveri degli studenti in alternanza, regole e carta dei diritti che saranno al centro dei lavori domani al MIUR negli stati generali dell'alternanza. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato ieri del passaggio storico che rappresenta, e anzi abbiamo aperto effetto giorno con questo, del passaggio storico che rappresenta l'approvazione della legge sul biotestamento. Si stanno scatenando, come era prevedibile, anche delle polemiche e degli scontri su questo. Ci sono divisioni tra i medici, alcuni intenzionati a mettere in atto quegli spazi di obiezione di coscienza che, pur senza dirlo esplicitamente, la legge prevede, molto critica, come prevedibile, la Conferenza Episcopale Italiana. Al microfono di Katia Caramelli, Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Ci sono alcune eccezioni che solleviamo e non ci riconosciamo in un testo del genere, ma su diversi punti, alcuni su tutti, il problema dell'obiezione di coscienza che non viene chiaramente tutelata né per il medico né per la struttura che accoglie la persona malata. Passando anche per la definizione che l'idratazione e la nutrizione artificiale vengono considerate delle terapie e quindi sospendibili in qualsiasi momento. Non possiamo considerare una terapia tarda a mangiare o tarda a bere una persona, possiamo considerarlo un bisogno naturale e un sostentamento alla persona. Il no all'accanimento terapeutico è una cosa assolutamente scontata, ribadita anche dal punto di vista morale dalla Chiesa dal 1957, in cui già Pio XII nessuno vuole l'accanimento terapeutico. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi torneremo sulla vicenda di Igor il Russo, tra le altre cose. Beh, qua io lo so che ci state scrivendo, continuate a scrivercelo e lo fate ogni volta su questa storia. Ci scrivete che non è russo ma è serbo, lo sappiamo perfettamente, solamente che a volte entrano nell'uso giornalistico, non solamente in quello, una serie di soprannomi e anche, se vogliamo, nel mondo criminale, poi alla fine si finisce per utilizzare quelli. Prendete questo. Francesco Pelle, che è un boss dell''ndrangheta, viene chiamato Ciccio Pakistano, ma non è pakistano, è calabrese, però si chiama, il soprannome è Ciccio Pakistano, è detto così. E quindi nel linguaggio giornalistico, nel racconto giornalistico di questa vicenda, l'uomo è diventato Igor il Russo. Ribadisco agli ascoltatori che ce lo scrivono sempre che non lo chiamiamo Igor il Russo perché ce l'abbiamo con Putin, sarebbe, mi sembra un delirio questo da complottardi, però, da complottisti, perdon. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e appunto ricominciamo da Igor. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e anche la nostra pagina Facebook sulla quale potete guardarci e potete commentare se volete. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della vicenda di Igor il Russo, il criminale che ha seminato, il criminale di origine serba naturalmente, che ha seminato paura nelle campagne del Ferrarese perché è stato arrestato in Spagna dopo una sparatoria con la Guardia Civile. Sono tre le vittime nell'azione. Abbiamo parlato del caso Etruria, Boschi nel mirino delle opposizioni, lei replica nessuna pressione, Vegas mi chiede un appuntamento alle 8 del mattino a casa sua e Ryanair che cede, riconosce il sindacato dei piloti, ANPAC che sospende lo sciopero previsto per oggi, la FIT-CISL che lo conferma, e di corruzione gli arresti di un ex dirigente del municipio di Ostia. Su questo tema arriveremo tra poco e arriveremo più avanti, intanto iniziamo il nostro giro d'Italia. Prima ancora di andare a parlare di Igor, perché stiamo cercando di raggiungere l'avvocato della famiglia di Davide Fabbri, il barista di Budrio che è stato ucciso da Igor durante una rapina, da Igor, da Norbert Fehr. Intanto una piccola storia, come sapete il venerdì cerchiamo di prenderla un po' più leggera, e questa storia arriva da un paese della provincia di Nuoro, da Bitti. Siamo in linea col sindaco Giuseppe Ciccolini. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Le pagine in questi mesi e in questi anni le avrete lette tutti quanti, le pagine che raccontano di pensionati italiani che se ne vanno, e se ne vanno non perché come dire, il nostro paese sia particolarmente brutto, perché soffrano a rimanere magari vicino ai loro parenti, ma se ne vanno semplicemente perché le tasse, per esempio in Portogallo o in Tunisia, sulle pensioni sono particolarmente basse. Si è segnalato un vero e proprio esodo, appunto, in particolare verso il Portogallo, paese particolarmente vicino, un paese per certi versi culturalmente non molto distante da noi, quindi anche facile nel quale vivere. Ebbene, Ciccolini ha lanciato una proposta che parte proprio dal suo paese ed è quella di abbassare le tasse a livello portoghese per i pensionati, per fare cosa? Trasformare, Ciccolini, la Sardegna nella Florida d'Italia? Beh, sarebbe un bel auspicio. Diciamo che tutto parte da un ragionamento semplice. La Sardegna soffre, come poche le altre regioni in Italia, il dramma dello spopolamento, soprattutto nei paesi più interni e diciamo lontani dalle ben conosciute coste. Per cui da lì parte una ricerca di soluzioni diverse, e il modello portoghese diciamo che risponde a una domanda, ossia creare le condizioni ideali per una determinata fascia di persone, una determinata fascia d'età, per trovare una residenza ottimale. La Sardegna è una regione che ha un clima e delle condizioni territoriali sicuramente favorevoli e particolarmente attrattive, per cui noi lanciamo la sfida in Europa per candidarci come luogo ideale per la Senatore, ma voi lo potete fare a livello comunale? Potete già fare qualcosa? Lo state già facendo oppure no? No, la mia proposta è una proposta di legge regionale, non è un provvedimento esclusivo del mio comune. Io chiedo alla regione Sardegna, che è una regione autonoma, che per cui ha la possibilità di programmare le risorse per, diciamo, i 7 decimi dell'IRPEF, di attuare delle misure incentivanti per favorire l'arrivo dei pensionati. In questo momento stiamo parlando dei pensionati esclusivamente dall'estero. Quindi dall'estero verso l'Italia, non far trasferire pensionati italiani in Sardegna. No, diciamo, le fasi sono due. Questa è la prima, quindi pensionati dall'estero, ma poi secondo me bisognerà aprire anche una diciamo così, un canale privilegiato con il governo per capire se ci sono, diciamo, da un punto di vista normativo si può fare, sì. Si possono estendere le stesse condizioni ai pensionati italiani, sì. Ma io credo che pur nella nostra autonomia questo vada fatto. Ma ne ha parlato col presidente della regione? Assolutamente sì. Lunedì, che dice? Ma lunedì a Bitti abbiamo presentato la proposta di legge, erano presenti i principali rappresentanti delle forze politiche che oggi stanno sì. Sia al governo che all'opposizione in Sardegna. E tutti si sono detti favorevoli a portare già nei primi mesi dell'anno la proposta di legge in consiglio. Sì, mi scrive un ascoltatore, giustamente, mi sembra che faccia la nota sia giusta, però dovete assicurare anche un sistema sanitario pazzesco, che non è detto che la Sardegna al momento abbia, perché se attrai una popolazione particolarmente anziana è evidente che quello è necessario, no? Guardi, io penso questo, che nessuno pensa che noi... che questo sia il nostro sia il luogo ideale dove vivere. Siamo ben consapevoli di quelli che possono essere i limiti del nostro sistema. Certamente bisognerà adeguare un sistema di servizi che possa funzionare meglio, però non dimentichiamoci che è vero che un pensionato tedesco ha un sistema sanitario migliore rispetto al nostro, ma per fare questo gli detraggono 500-600 euro al mese dalla pensione, per cui pensare anche a un sistema di diciamo così di supporto alla sanità pubblica sì. È legittimo, sì. Cioè non pensiamo che negli altri stati abbiano davvero tutto senza certamente. Allora, grazie a Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti. Nuoro, vedremo come andrà avanti la sua proposta, che a questo punto prende l'avvio la prossima settimana. E grazie a Giorgio Bacchelli, che è l'avvocato della famiglia di Davide Fabbri, il barista ucciso a Budrio da Igor, che chiamiamo, lo ripeto ancora per gli ascoltatori che continuano a scrivere su questo, impropriamente Igor il Russo, perché ormai il nome è quello, ma in realtà è serbo. Il suo nome, tra l'altro, è un altro, si chiama Norbert Fehr, conosciuto anche come Igor Vaclavic. Così abbiamo detto praticamente tutto. Buongiorno Bacchelli, e immagino che ci sia una certa soddisfazione, per quanto possibile, per quanto nel dolore, da parte dei parenti delle vittime. Allora, buongiorno. Parlare di soddisfazione è un eccessivo. Dobbiamo dire che è un elemento di positività, sicuramente era uno degli scopi che speravamo di conseguire in breve tempo, quello di assicurare alla giustizia in qualche modo un delinquente della dimensione di Igor. Ho parlato con la vedova Maria Sirica già 2 o 3 volte stamattina, dopo le 10:30, 11, quando è stata divulgata la notizia dell'arresto di Igor, e devo dire che Maria è molto turbata. E questo fatto, che da un lato ha delle positività e magari dopo le chiariamo quali sono, e dall'altro però anche diciamo accentua il ricordo triste di un momento drammatico esistenziale che non può certamente scomparire nella mente turbata di una povera vedova che si è visto uccidere e trucidare il marito davanti ai propri occhi in un episodio drammatico. Sì, ricordiamo il livello criminale di questa persona, lo ricordo certo. Io agli ascoltatori, certo. Si parla di rapine efferate, condotte sì. Già a partire dal 2007, addirittura sì. Armato di arco e frecce, poi sì. Con l'ascia nel 2010, sì. Poi insieme ad altre 3 persone terrorizzò il ferrarese il Rodigino, assaltò sì. Ville e casolari, dopodiché si arrivò appunto agli omicidi. In uno degli assalti venne ucciso un pensionato di 73 anni, sì. Poi ci furono gli altri omicidi, gli ultimi, quelli appunto di Davide Fabbri e della Guardia Ecologica, sì. pezzi di Verri la guardia ecologica, e forse avrebbe ucciso anche una guardia giurata, ma questo ovviamente va accertato. Poi ci fu questa enorme ricerca con un, ed è per questo che noi la trattammo, perché fu una ricerca in un territorio tutto sommato limitato in termini di dimensioni, per quanto è complicato da battere, con un enorme dispiegamento di uomini che dal quale, da questa ricerca a tappeto, Igor fuggì, tra l'altro con storie che abbiamo raccontato a questi microfoni proprio con lei in alcuni momenti, il passaggio nel quale i carabinieri se lo vedono passare davanti, chiamano la centrale gli dice di aspettare rinforzi, lui entra ed esce dal bosco, va avanti e indietro dal suo furgone per due volte, dopodiché sparisce nel nulla, e quindi anche una gestione sulla quale sollevare tutta una serie di perplessità. Lei ci diceva, avvocato, ci sono delle positività, c'è anche il rischio che in Italia non venga mai processato a questo punto, visto come è avvenuto l'arresto? Direi, all'ultima domanda che lei mi pone, risponderei negativamente, cioè questo rischio non esiste. Mi spiego, in questo momento lui è arrestato in Spagna, ha 3 omicidi a quanto ho sentito a suo carico, e quindi sicuramente verrà processato in Spagna. Che vantaggi derivano dal fatto che non è più un latitante, non è più una persona dispersa alla quale non si possono notificare provvedimenti giudiziari, è una persona a cui si possono notificare perché sappiamo dov'è. Quindi il processo penale italiano può andare avanti, si concluderanno le indagini preliminari visto che è stato rintracciato, e dopodiché ci sarà l'udienza filtro davanti al GIP, poi ci sarà il dibattimento, quindi il processo può andare avanti, questo è un elemento di positività. Il processo penale va avanti e quindi l'Italia può essere condannato per i 2 omicidi e forse anche per un altro. Condannato assai improbabile, mi sembra di capire da quel che ci dice, se non impossibile che venga estradato, e quindi Al momento direi che l'estradizione forse non avviene. La Spagna ha una priorità da questo punto di vista. Adesso non conosco le convenzioni che nell'ambito della Comunità Europea regolano e disciplinano questi casi, perché qui abbiamo una priorità sicuramente di atti delinquenziali italiani molto gravi, e poi quelli successivi, quelli di ieri l'altro, oggi, della commessa in Spagna. Questo è da accertare, questo collegamento, diciamo, di problematiche processuali tra due stati della Comunità Europea lo dobbiamo ancora verificare. Probabilmente l'estradizione non è immediata. Non è detto che non possa venire in seguito, ma questo non impedisce la possibilità di processarlo in Italia. E in assenza, naturalmente, non sarà presente fisicamente se è arrestato in Spagna e se dalla Spagna non ce lo rilascia, non ce lo consentono di portare in Italia. Ecco, però il processo penale italiano può andare avanti, quindi costituzione di parte civile, condanna, ergastolo è sicuramente assicurato e si va avanti così. Poi ci saranno gli altri vantaggi piccoli, che derivano piccoli perché le indennità dello Stato non sono importanti, diciamo, si parla sempre di cifre abbastanza modeste, speriamo che vengano aumentate da nuove leggi di riforma e andiamo avanti così. Insomma, il processo penale però va avanti e ci consente di avere gli altri piccoli vantaggi e benefici che derivano dal processo penale. Avvocato, visto che poi voi avevate messo una taglia di segnalazioni, ne avete ricevute tante. Avete ricevuto segnalazioni dalla Spagna oppure no? E più in generale, visto che insomma, al momento non siamo riusciti ancora a contattare gli inquirenti, da quel che risulta a lei, che ruolo hanno avuto gli inquirenti e gli investigatori italiani nel segnalare agli spagnoli se l'hanno segnalata la presenza di Igor in Spagna? Allora, sono certo che la segnalazione da parte delle autorità italiane agli spagnoli sia avvenuta per una serie di motivi. Uno, perché Igor era stato in Spagna, tant'è vero che alcune immagini che lui ha postato su Facebook erano scattate in Spagna, quindi conosceva la Spagna. Due, io ho avuto personalmente, mi è stata mandata da un italiano dall'aeroporto di Madrid, mi pare un mese e mezzo fa circa, potrei andare a rintracciare la data guardando appunto quando mi è stato inviato l'email, un italiano all'aeroporto di Madrid aveva fotografato un personaggio che riteneva fosse Igor, che aveva molte somiglianze con Igor. Poi era scomparso, lui non è che l'abbia inseguito, ha detto è entrato nel metro dopo l'aeroporto, dopo essere uscito dall'aeroporto di Madrid, ed è scomparso. Vi segnalo il tutto per il seguito di competenza. Io ho girato pubblico ministero, il dottor Forte, il tutto, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha portato a cercare in Spagna qualche cosa e quindi informare le autorità spagnole della possibilità di trovare Igor da quelle parti. Non sappiamo come sia andato in Spagna, che strade abbia preso, questo no, però c'era una segnalazione, c'erano più segnalazioni della Spagna e della possibilità di trovarlo da quelle parti. La ringrazio, grazie a Giorgio Bacchelli, avvocato della famiglia di Davide Fabbri, ucciso a Budrio appunto da Igor, da Norbert Fehr. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi a chiudere abbiamo un'altra piccola storia, un paese del Trapanese, Campobello di Mazara, dove cosa è successo? Che è stato raccolto un gatto che aveva un'immunodeficienza felina. Ebbene, il comune ha deciso AIDS felino, così si chiama. E il comune ha deciso di spendere 2.120 euro per curarlo. Grande polemica, perché insomma si dice, bah, abbiate pazienza, va bene tutto, però forse da quelle parti ci campa una famiglia per sei mesi con quella cifra. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Igor il Russo, il criminale che ha seminato paura nelle campagne del Ferrarese e ucciso almeno due persone. In Italia è stato arrestato in Spagna dopo una sparatoria con la Guardia Civile. Tre le vittime nell'azione. Caso Etruria, Boschi nel mirino delle opposizioni. Lei replica, nessuna pressione. Vegas aggiunge, mi chiese un appuntamento alle 8 del mattino a casa sua. Per l'addio agli studi di settore si dovrà attendere ancora un anno, lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione bilancio alla Camera. Si applicano tutto gli indici di affidabilità fiscale, si applicheranno non più dal periodo d'imposta 2017 ma a decorrere da quello del 2018, al 31 dicembre 2018 e quindi al 2019. Ryanair cede, riconosce il sindacato piloti, ANPAC sospende lo sciopero previsto per oggi, la FIT CISL lo conferma, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, una storia più leggera, si fa per dire, per chiudere la vicenda che arriva da Campobello di Mazara nel Trapanese. Grande polemica, perché? Perché un gatto randagio c'era in giro, malato di questa malattia che si chiama AIDS felina, cioè un'immunodeficienza felina, e il comune ha deciso di curarlo spendendo più di 2.000 euro. Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, non è che avete sprecato denaro pubblico? Ma io ritengo proprio di no, perché è compito specifico dell'amministrazione provvedere alla cura anche degli animali, si tratta di gatti, di cani, di uccelli rapaci, ma comunque vanno presi in cura da parte dell'amministrazione, considerato che c'è un ASP che non è in grado di provvedere. Non c'è un ASP, perché chi dovrebbe provvedere a questa cosa? Ma in Sicilia viene demandato alle ASP e ai comuni, laddove l'ASP non ha la struttura idonea necessaria per poter provvedere alla cura e al ricovero di questi animali, bisogna trovare immediatamente la struttura anche privata più vicina per poter dare le cure che sono necessarie per la salvaguardia anche della vita degli stessi esseri. Mi chiedo questo però, sindaco, abbia pazienza. Allora, dato che la Sicilia ha tradizionalmente un problema di randagismo enorme, che non riguarda solamente i gatti, ma riguarda per esempio i cani, ce ne sono tantissimi e lo sappiamo. Ragazzi, ma se vi mettete a fare questa cosa qua, praticamente andate non in rosso, ma in profondo rosso con il bilancio del comune, che tra l'altro non so nemmeno come sia, cioè se siate già in rosso oppure no. Il bilancio del comune, come tutti i comuni, ormai sono in maniera asfittica, con l'acqua alla gola per poter sopperire a quelle che sono le esigenze necessarie. Tuttavia, il comune ogni anno dedica dei capitoli di bilancio appositamente per il fenomeno del randagismo. Sì. E per la cura degli stessi animali, oltre che per le vaccinazioni, e quanto necessario per poter prevedere. Ovviamente, limitatamente a queste somme, non andiamo con debiti fuori bilancio. Quindi, delle somme assegnate nei capitoli del randagismo sono state utilizzate anche per la cura di questo gatto, ma sia di un cane o di qualsiasi altro animale che viene consegnato all'interno della casa comunale, perché ce l'hanno consegnato i cittadini, e quindi noi non possiamo rifiutarci, perché in un paese qua vicino, di Trapani, i vigili urbani che si sono rifiutati di poter accudire e soccorrere un cane investito sono state denunciate regolarmente alla procura della Repubblica. Quindi se il cittadino vi avesse portato il gatto e voi aveste detto no, non lo possiamo prendere, vi avrebbero... Si rivolgeva alle autorità competenti e i nostri vigili avrebbero subito la stessa sorte dei colleghi dei Pacic. No dai ragazzi, non siate cattivi, qua qualcuno su WhatsApp dice se lo avesse portato a Vicenza lo avremmo curato noi, dai ragazzi, per favore. Ma una battuta di un ascoltatore, lo sa, Vicentini, Magnagatti. Io in questi 3 anni ho subito anche sono stato tacciato di non amare gli animali perché non spendiamo i soldi in maniera maggiore, più cospicua per il fenomeno del randagismo, cosa che io sto cercando di controllare quanto più possibile, sempre ripeto, con le esigue risorse di bilancio che si aggirano sulle 15-20 mila euro che sono state destinate proprio al capitolo del randagismo. Qua qualche ascoltatore la butta in paradosso, dice i piccioni non li curate? Io mi rifiuto di rispondere perché dovrei essere più cattivo della domanda. Guardi che può esserlo, Castiglione, siamo qua, siamo tra amici, per così dire. Il fenomeno si tratta di animali gatti, sono animali da compagnia che ormai sono diffusi in tutte le case dei cittadini. Purtroppo qui c'è la cattiva abitudine che quando ci si stanca di questi animali viene facile lasciarle in giro per strada e poi si grava tutto sulle spalle. Ma quanto spendete, Castiglione? Quanto spendete ogni anno per curare i randagi? Nel nostro comune io fino adesso ho investito sulle 20.000 euro l'anno e sono queste le somme con cui ci siamo limitate perché non abbiamo altre possibilità. Io le posso rappresentare che nei comuni vicinori... Quindi potete curare altri 9 gatti al massimo, Ma non è così. Noi abbiamo fatto tante di quelle cure in questi 3 anni che abbiamo cercato di garantire la salvezza di questi animali che ci vengono di volta in volta segnalate e consegnate. Ma ripeto, non abbiamo né indebitato il comune più di quanto già non lo avesse trovato quando l'ho preso in carico io, né tantomeno possiamo girarci dall'altra parte e fare finta di non sapere o di non conoscere il fenomeno. No, anche perché da quel che ho capito, appunto, ci sono anche delle conseguenze penali per gli stessi amministratori. Io la ringrazio, grazie a Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, provincia di Trapani, per essere stato con noi. Chiudiamo con questa storia un po' più leggera, appunto. Il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.